בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Un minuto dopo le 21 di questo giovedì 14 marzo 2013. Buonasera da Agostino Spolaore, ma buonasera anche dal mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Anche tu questa sera qui? Eh sì, c'ero anche ieri. Pensavo stessi a casa. No, no, io non... Quando c'è da suonare, da sentire, da non presentare, suoni, non suono. Per suono con la mente. Ti piace suonare qualche strumento, no? Mi piaceva. Non ti piaceva? Ma non te l'ho mai chiesto, sai? Sì, suonavo la chitarra, ma molti anni fa, e molto male, ecco, molto bravo, male. Per fortuna ti sei fermato. Per fortuna mi sono subito fermato. Dicevo buonasera da Blu Radio Veneto, anche oggi un live, anche oggi qualcosa dal vivo, anche oggi un grande artista, la musica di qualità come sempre qui a Blu Radio Veneto. Questa sera abbiamo un cantautore vicentino, cioè Diego Pettena. Ciao Diego. Ciao a tutti, ciao Agostino, ciao Maurizio. Ciao Diego. Prima però di presentare Diego e il suo tastierista Andrea Gobbo, ma ne parliamo, dicevo, tra qualche istante, prima i nostri dati, ovvero sia i nostri numeri telefonici con il studio allo 049 875 6423, mentre quello per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Se ci state ascoltando in streaming è perché siete sintonizzati sul o meglio, se state guardando, state sentendo via internet, cioè collegati nel nostro sito, e cioè www.bluradioveneto.it. lì potete ascoltarci 24 ore su 24 in diretta, in streaming in tutto il mondo, e ci tengo a sottolinearlo perché spesso e volentieri abbiamo contatti dall'estero. Ti ricordi Maurizio che ci sono, certo, saluti, certo, dall'Australia, il Giappone, l'India, insomma abbiamo avuto diversi contatti anche fuori dalla nostra nazione, e quindi è giusto sottolineare e mandare un caro saluto anche ai nostri ascoltatori oltre i nostri confini. E poi ancora il nostro sito, dicevo, lì ci potete leggere e vedere tutte le nostre informazioni inerenti alle recensioni sui dischi, ai nostri live, quello che facciamo, quelli futuri, quelli precedenti. Troverete sempre tutti i podcast che vengono messi di consueto, insomma, sempre dopo qualche giorno alla trasmissione, all'intervista, quindi li potete tranquillamente scaricare, sia ascoltare che scaricare gratuitamente. Poi ancora le nostre pagine su Facebook, cioè Blu Radio Veneto Rock Wave, quella gestita da Alberto Prisco, che salutiamo, è un caro amico, molto un caro collega, è il nostro direttore artistico, magari ci sta ascoltando, ma non credo, penso sia impegnato in altre faccende. Sì, soprattutto visive. Ecco, e poi abbiamo un'altra pagina, cioè semplicemente Blu Radio Veneto. Credo di aver detto tutto, le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Dicevo, ripeto, Agostino, Maurizio, ma questa sera c'è Diego. Allora Diego, hai fatto, beh, viaggio, eccoci. Non te lo dico buon viaggio, hai fatto buon viaggio perché qui sei vicinissimo, insomma. Sono vicinissimo, sì. 30 km, insomma. Assolutamente. Parlami vicino al microfono, sai. Sì, Diego. Sì, sono della provincia di Vicenza, quindi veramente a pochi chilometri qui da Blu Radio Veneto. Ti sei portato un compagno, un musicista. Un carissimo amico prima di tutto, oltre che il mio compagno di viaggio e di avventura in questa mia esperienza, che è l'amico Andrea Gobbo. Buonasera a tutti. Ciao Andrea, benvenuto anche a ciao, te. Ciao Agostino. Benvenuto. Buonasera Andrea. Ciao. Perché mi diceva giustamente Diego, lui è venuto, sì, a trovarci un po' di anni fa, circa una decina di anni fa, vero Diego? Con un'altra dimensione, una dimensione di una band, perché lui ha cominciato con una band, anzi ha cominciato a sentire Battisti e i cantautori grazie a suo papà e sua mamma. Sì, certo. Bravi genitori che hanno dato un input decisamente, ciao, rock, mamma, tra virgolette. Dimmi allora, Diego. Sì, sei venuto un po' di anni fa. Sono venuto esattamente 10 anni fa con una band di cui ho fatto parte per parecchi anni, che ha segnato tantissimo, insomma, la mia carriera, la mia esperienza musicale come cantante con i PNR. Sono venuto qua, appunto, ero ancora giovane, diciamo, musicalmente, avevo poco più di 20 anni, e ho avuto appunto la fortuna di partecipare a una bella trasmissione che è Rock Wave. Sì, sì, che è ancora Rock Wave, non è cambiata. Rock Wave, e niente, insomma, mi piace ricordare quell'esperienza e mi fa molto molto piacere poter essere qui nuovamente e ritrovare il caro amico il nonnetto, Maurizio, oltre che il grande Agostino. Grande, sì, Agostino è una new entry rispetto a 10 anni fa, però insomma la radio è un grande amore, quindi va e viene, però rimane sempre la radio, la musica più che noi, sai, noi andiamo però la musica rimane. Quindi 10 anni fa hai contribuito con il PNR, poi lentamente il discorso è cambiato e ti sei si è portato verso una dimensione cantautorale, e grazie ad Andrea, che hai conosciuto Andrea, quindi avete sviluppato un discorso, un progetto vostro. Eh sì, beh, Andrea bisogna dire lo conosco da tantissimi anni e collaboriamo assieme anche su altri fronti ormai da parecchio tempo. Andrea è anche lui un cantautore che scrive pianista anche. Cantautore che scrive canzoni da parecchio tempo e che costantemente mi faceva sentire registrate da lui, e quando ho deciso insomma di dare una svolta un po' alla mia carriera musicale, carriera artistica, mi sono, senza praticamente neanche pensarci, rivolto a lui per trovare la materia prima iniziale e comunque il supporto necessario per fare questo passo, insomma. Esattamente. Com'era l'idea? Tu hai detto l'idea è riarrangiare alcuni pezzi, alcune canzoni scritte da Andrea e poi rimetterle a posto in un senso anche minimale, il minimalismo. Com'è quel senso di minimalismo de Gregoriano, possiamo dire, alla De Gregori? Questa è proprio l'idea originale, proprio. Noi ci siamo messi lì alla fine 2010 quando abbiamo cominciato e l'idea era proprio quella, insomma, eravamo una voce e un pianoforte, lui si sente un pianista, non si sente tastierista. Un pianista. Effettivamente un pianista, si sente la tastiera, però per motivi di spazio, la tastiera si sente ed è un pianista, e abbiamo deciso facciamo quello che sappiamo fare, cantiamo e suoniamo, quindi cerchiamo di prendere questi pezzi che Andrea aveva scritto anche in un'ottica più d'insieme, quindi più arrangiata, e di renderli più minimali, appunto in versione piano e voce. Poi anche questa idea si è evoluta nel tempo, però... Quindi Minima Live è proprio quello. Minima Live è uno spettacolo che voi avete portato assieme nel 2011 praticamente. Sì, è stato il nostro inizio come live, insomma volevamo partire con questa idea che era comunque una novità, quantomeno per me, insomma, quello di fare un live così essenziale, minimale e di sole canzoni inedite, anche perché in questo periodo è veramente difficile trovare da esibirsi con questo genere, con questo repertorio di soli inediti, e niente, non ci veniva una definizione, alla fine ci è venuto, mi sembra che sia stato proprio Andrea ad avere l'idea del titolo, quindi copyright è suo, di Minima Live. Cosa dice Agostino? Facciamo sentire il primo pezzo del disco. Già subito così. Sì, così. Mi faceva piacere sentire comunque quella parlare. In ogni modo lo facciamo ascoltare. Sì, dopo facciamo parlare Andrea, chiaramente. Allora, Andrea, tu ci hai scelto Come Brillano. Sì. Questa canzone, come nasce? Beh, Come Brillano è un pezzo che ha scritto Andrea Gobbo ed è un pezzo che racconta l'uomo e lo descrive partendo dagli occhi, insomma, gli occhi che descrivono l'umanità e la persona meglio di qualsiasi parola. Quelle persone che hanno avuto e che hanno veramente tante cose da dire, da raccontare, grazie a una vita vissuta piena di soddisfazioni e piena di esperienze importanti. L'ascoltiamo. Ascoltiamola. Sole, gli occhi di chi nel segreto ama, di chi vive nel silenzio e tace al mondo intero quel che sogna. Come brillano nel sole gli occhi di chi sa che in quel momento vive dentro un paradiso che raggiunge solo con il vento, di chi sa aspettare a lungo. Forse non sarà domani, altro giorno di battaglia per tenere pronte le sue mani rivolte a te, unica speranza di cui non so stare senza. A te affida la sua vita e si chiude nella stanza dei sogni suoi. Qual è il prezzo da pagare se ami? E se in quell'amore spazio non c'è? È così lontano ogni domani. Se non arriva aspetto qui, aspetto te. Se non arriva aspetto qui, aspetto te. Se non arriva aspetto qui, aspetto te. sguardi di chi soffre dentro sembrano guardare persi, come in mezzo ad un deserto. Come brillano nel sole quegli sguardi consumati, gli si legge che la vita non li ha per niente risparmiati. Hanno l'anima più forte di chi a lungo ha combattuto con giganti così grandi che di loro ha stracciato tutto. Come brillano nel sole gli uomini che sanno amare, che ricercano speranza e trovano l'ispirazione nel dolore. Qual è il prezzo da pagare se ami, e se in quell'amore spazio non c'è? Dai, così lontano ogni domani, se non arrivo aspetto qui, aspetto te. Se non arrivo aspetto qui, sono strade che percorro non libere, passo che porta e va. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ecco, abbiamo rotto il ghiaccio con Diego Pettena, qui con questo disco che si intitola Una felicità qualsiasi. Come mai questo titolo? È il titolo del secondo brano del disco, è un brano che ha scritto un mio caro amico. Non l'ho scritto io l'ho musicato, però il testo l'ha scritto mio caro amico Nazareno, che saluto, e mi piaceva tanto, e ci abbiamo ragionato su un po' sempre insieme con Andrea, e abbiamo visto che era un titolo che poteva funzionare, che ci colpiva, e colpiva anche la curiosità della gente che appunto si approcciava all'album, al disco. Adesso citiamo il pezzo che abbiamo sentito, come brillano. Noi della redazione della radio abbiamo scritto che è un pezzo che è una ballata romantica iniziale, poi vira su un discorso pop. Chi ha avuto l'idea del discorso pop? Andrea o Diego o tutti e due assieme? Adesso facciamo parlare Andrea, che è qui davanti, che ha detto pochissime cose prima. Vai, Andrea. Ma nella fattispecie la virata pop è stata data da Federico Pelle, che ci ha aiutato negli arrangiamenti. Gli arrangiamenti, perché sì. Virata pop, quindi vengono avanti gli strumenti. Esatto. Gli archi consentono di predisporre tutti gli altri strumenti, è proprio un'apertura totale. Esatto, esatto. Anche lo stesso modo con cui viene suonata la batteria, un ritmo un po' particolare, fa pensare un po' anche al celtico. Sì. No, non è tipicamente pop italiano, no? Era amicante, orecchiabile, poteva entrare immediatamente in circolo, forse un motivo anche per questo. Sì, non farla pop c'era il rischio che il pezzo fosse troppo lento, siccome il testo è molto intimo, molto riflessivo, volevamo alleggerirlo, lasciarlo scorrere via. Avevamo bisogno di una certa scossa, una leggera scossa. Adesso anche perché è abbastanza lungo il pezzo, quindi necessitava effettivamente di una virata, di una svolta che fosse, creasse un po' anche quell'effetto sorpresa un po', no? Sì, magari non si aspetta che continui la ballata romantica fino alla fine, invece c'è proprio questa, che io adoro le ballate poi. E, dimmi Andrea. E il pezzo originale era ancora più lungo. Ah, avete deciso di accorciarlo? Cioè, è stato scritto che durava quasi 6 minuti. Ma bello, era bello, interessante. Poi, allora. Sì, c'era un'ulteriore strofa, però. Ma come mai l'avete tolto, se posso? Perché questo qui che può. Perché i Pink Floyd ci hanno detto che era troppo lungo. Abbiamo capito che effettivamente. È vero. No, fare un. Questo forse è il pezzo più radiofonico. Sì, Pink. Esattamente. Da 6 minuti dici era un rischio. Beh, più che un rischio è una certezza. Una certezza. Ok. E una cosa che il perno fondamentale di questo disco l'abbiamo scritto nella bellissima recensione che abbiamo fatto. Sono gli archi. L'idea degli archi per me è stata positiva e vincente. Perché mettere insieme gli archi, viola, violoncello, violino, dà un quel tocco romantico e anche due dark. Donne, due donne. Laura Masotto al violino, bravissima. E Maddalena Fasoli. La viola. C'è anche il violoncello con Cecilia Gonzalo. Quindi queste tre ragazze che suonano gli archi, è una cosa molto positiva. Questo andamento, l'arco, cioè i suoni degli archi, della viola, violoncello e violino, dà un certo senso romantico, ma anche decadenti in alcuni momenti, secondo me. Certo. Mettiti davanti il microfono, Andrea, perché non si sente. Tuo certo, va bene, ok. Certo. Perfetto. Ti piace. Quindi l'idea certo vostra radiofonico, certo. Certo, l'idea vostra era questa. Avete coniugato. Sì. Bene, mettiamo gli archi. Sì, è stato a passettini. Prima abbiamo detto solo piano voce. Poi abbiamo detto no, lo richiamo con gli archi. E poi su un paio di brani ci abbiamo messo tutta la band. Ecco, avete giustamente messo tutta la band, e questa è una cosa positiva. Sì, diciamo che abbiamo l'idea degli archi ci è venuta abbastanza presto, insomma, volevamo appunto avere dei pezzi, siccome non è l'unico pezzo che presenta gli archi, in cui appunto ci fossero questi intrecci da parte del violino, viola, violoncello. E poi ovviamente il nostro coproduttore che ha coprodotto il disco, Federico Pelle, ha sposato la causa, anche perché lui è un amante anche lui, insomma, degli archi, e ha fatto questi arrangiamenti bellissimi. E niente, insomma, poi lì li abbiamo appunto utilizzati in tutti i brani con forme e sfaccettature diverse. Basti pensare al violino che c'è invece su Una felicità qualsiasi, che ha dei connotati veramente totalmente diversi rispetto a un violino melodico romantico che può essere come quello di Come brillano. Certamente. E io poi ho visto un nome che mi sono brillati gli occhi. Come sempre. Come brillano i tuoi occhi. Ma voi non lo sapete, adesso ve lo spiega. Adesso ve lo spiega, anche se è indiretto, un nome indiretto. Vediamo se hai indovinato, Maurizio. Quando uno suona la batteria, suona. Al posto di chi? Di Stefano. Di Stefano. Lo chiama familiarmente Stefano, lui, perché dopo un fan canito dei Pooh dalla prima ora, 1965. Filmer, che poi tra l'altro Filmer è anche il produttore della figlia di Rebecca Canziani. Sì. Di Chiara. Di Chiara, sì. E io non l'ho mai conosciuto di persona, però mi piace come suona. Sì, sì, suona. A parte che è una persona veramente. Un ragazzo giovane, poi. Giovane, in gamba, semplice, umile, veramente una bella persona. Svedese, cos'è? Inglese, cos'è? È biondissimo. Alto Tesino. Alto Tesino. No, non ci credo. Sì, sì, sì. Ah, ecco. Bolzano. Di Bolzano. Sì, sì, sì. È veramente una persona molto. È nordico, dai, possiamo dire nordico. E ovviamente un bravissimo. È tecnicissimo. Sì, io l'ho visto all'inizio di febbraio, l'ho visto qui a Padova con il concerto dei Pooh. Concerto dei Pooh, sì. Veramente, tra l'altro volevo andare anche a salutarlo, conoscerlo, ma insomma non mi è stato possibile, che poi lì ci vogliono tutti i pass, eccetera, eccetera. Però a me piace. E poi c'ha questa, tra virgolette, fama di produttore, insomma, quindi. E te lo sei voluto tu? No, anche qua sempre grazie a Federico Pelle siamo riusciti tramite i suoi contatti ad arrivare a Filmer. Quando ci ha fatto questa proposta, ha detto potremmo arrivare a Filmer alla batteria, abbiamo detto vabbè, vediamo cosa si riesce a fare, e ci siamo riusciti. Com'è stata lavorare con lui? Io sono curioso. È stata un'esperienza veramente veramente molto molto bella. Fatalità, quando abbiamo registrato le parti di batteria, basso e chitarra, era proprio il giorno di Pasqua dell'anno scorso. Dietro. Quindi è stata veramente costruita su misura e ad hoc questa giornata di registrazione. È stata un'esperienza dall'inizio alla fine, proprio bello, bello, bellissimo. In totale, comunque, nell'assieme, quanto ci avete messo a fare questo disco? Tanto tempo. Ma aspetta un attimo, prego. Gli elefanti partoriscono dopo. Stai facendo i conti. Sì. Ma io Diego l'avevo conosciuto prima con il disco prima che mi avevi già mandato, ti ricordi? Tu hai sentito, hai avuto l'onore di sentire il demo che abbiamo fatto in home recording io e Andrea. Sì, comunque questo disco, sì, diciamo che se guardiamo proprio la durata dall'inizio alla fine, dalla prima nota, dal primo ingresso in studio a quando siamo usciti, sono stati 8 mesi. Poi ci sono stati tante giornate di arrangiamento, però insomma, quindi di registrazione pura, alla fine te la cavi con quei 15 giorni. Cioè tutta la preparazione che conta. È stata una preparazione molto lunga e sì, perché il disco era è curato, il disco che lo richiedeva. Ma il disco è curato, molto curato, i suoni sono tutti molto curati, non sono buttati così. Anche, cioè, è un disco di un esordiente, ho preso un totale, un esordiente come dal punto di vista da solista, voglio dire, perché l'EP non citiamo il disco precedente, diciamo, questo qua sì, è sì, il disco pseudo ufficiale. Il mio biglietto da vista, io lo chiamo così, il biglietto da vista come solista. Sì. E quindi è molto molto curato. Sì, va detto che il tempo lungo è stato necessario per dare un'identità al progetto, no? Perché noi siamo partiti con un'idea molto semplice, andiamo in studio, ci facciamo un disco piano voce, poi l'appetito via mangiando, quindi si è allargato il discorso. Sì, i pezzi sono buoni, perché non facciamo qualcosa in più, quindi ci vuole del tempo per maturare un'idea, per identificarsi in questa idea, quindi credo che sia un parto naturale. 9 mesi. Perfetto. E vediamo cos'è uscito allora. Sì, esatto. Vediamo cos'è uscito. Cosa ci fate ascoltare adesso? Adesso vi vogliamo sentire dal vivo. Vi facciamo ascoltare un altro pezzo, ovviamente. Tanto finché lo. Prego. Di una felicità qualsiasi. Il pezzo si intitola Attimi. È una canzone d'amore un po' particolare, che parla di un amore che finisce ancora prima di sbocciare. Insomma, per motivi particolari. Un amore che non viene accettato dalla società e sfuma con grande, ovviamente, tristezza e rassegnazione dei protagonisti. Il pezzo si intitola Attimi. Scorderanno mai di noi, chiudi a chiave la porta e poi mi lasci e scivoli via da me col pianto di chissà che ormai quel bacio è solo un ricordo e mai ci potrà ricongiungere. Lascia un solco nell'anima che il vento brucerà. Morte la passione tra noi, siamo soli al mondo, complici di un amore senza regole. Se vuoi e la voglia di provare ancora quel brivido e l'incoscienza inutile del non voler più essere qualcosa e che non benissimo. Questa è una versione proprio scheletrica nel disco, e ci sono dei riferimenti un po' diversi che noi abbiamo citato. C'è un piccolo accenno di jazz, secondo me, su una colazione mitteleuropea. Questa è proprio, secondo me, la versione originale del pezzo, com'era originalmente, come l'avete creata, proprio con la struttura proprio originale. Poi chiaramente con gli arrangiamenti, con l'invenzione degli archi, la struttura si è un po' allargata. Sì, sì, perché dura due minuti, neanche tre minuti, due minuti e trenta, due minuti e quaranta. Pezzo molto breve, sì. Questo è un pezzo che ho scritto io e l'abbiamo provato, arrangiato e fatto ascoltare anche dal vivo nei live in questa versione. È molto piaciuto, Fin da subito, una versione pianoforte e voce molto semplice, ed è stato poi nella fase appunto di arrangiamento, di stesura del disco, che abbiamo deciso di fare un pezzo sì un po' più jazz, come dici te, più pieno di cose, con queste sonorità un po' particolari, sempre grazie all'aiuto dell'arrangiatore. Ma l'arrangiatore che funzione ha avuto l'arrangiatore, al di là che le musiche le ha scritte Andrea, tu sei intervenuto, gli hai dato una mano, come vi ha diretto, che strada vi ha fatto percorrere? Diciamo che Federico anche lì è una persona che conoscevo già da parecchio tempo, è un amico, un bravissimo professionista, e siamo entrati subito in sintonia. L'arrangiatore è un mestiere, quindi se quelle cose non le avesse fatte lui, le avremmo dovute fare noi. Ah, ho capito. E le avremmo fatte noi, quindi sicuramente è qualcosa che va fatto, quindi nel momento in cui lui si è sentito parte integrante anche lui, insomma, di questo progetto, di questo disco, e ha deciso di collaborare e darci una mano, noi abbiamo visto che le sue idee erano allineate con le nostre e molto belle, molto positive, abbiamo deciso appunto di dargli in mano questo compito molto importante e abbiamo... Quindi il disco si è forgiato, si è costruito, esatto, su questi tre elementi, queste tre vostre... I vostri due modi di fare, e lui che cercava di sistemare nel senso positivo delle cose, insomma. Certo, poi lui ha un'esperienza tale, oltre ad essere appunto un fonico, un arrangiatore, anche un musicista molto bravo, per cui ovviamente le competenze erano molto molto ampie, insomma, per fare questo tipo di lavoro. Io voglio sapere invece come nascono le tue canzoni, Diego, cioè voglio dire, parte prima la musica innanzitutto o parte prima il testo? E quando parte il testo, da cosa prendi spunto, insomma, ti nascono così, vedi un fatto, qualcosa, o è biografica? Diciamo che ultimamente nasce quasi sempre prima il testo, quantomeno l'idea, e... non scrivo di cose particolari, scrivo sempre o di sentimenti o di qualcosa che è accaduto magari attorno a me o che ho visto accadere e che mi ha colpito in maniera particolare. Capita delle volte che dopo aver letto magari un libro mi è piaciuto in modo particolare la trama o un episodio, la storia, e prendendo spunto da quello che accade mi viene in mente un testo, un possibile testo, lo scrivo. Solitamente parto appunto dall'idea, dal testo, e piano piano nasce anche la melodia. Diciamo che ovviamente la melodia ha sempre un aspetto importante per le mie canzoni, e per cui se vedo che una melodia non nasce in maniera abbastanza rapida, vuol dire che il pezzo è destinato a non partire. Questo è abbastanza logico. Anche per te, Andrea, la stessa cosa? Visto che sei un cantautore anche tu, nel mio caso il pezzo decide lui di nascere. Mm-hmm. Ho capito già. Andrea è sempre molto ermetico. Non mi è mai successo di dire adesso scrivo qualcosa e di scrivere qualcosa di decente. È sempre successo il contrario, di mettermi lì e senza volerlo tre note o due parole che fanno nascere una canzone, che generalmente nasce nell'arco veramente di pochi minuti, la struttura, l'idea originale. Poi il resto sono aggiustamenti di un qualcosa che però è già nato prima. Quindi la base è già costruita assolutamente. È proprio, direi... Ma la base grezza, nel senso, la base, se proprio il nocciolo nasce nostro, subito, nostro. La durata di un orgasmo maschile. Perfetto. Ok, bella raffigurazione. Capito subito. Sì, praticamente, quindi cioè, dopo ci metti su qualcosa per fare una canzone, praticamente. Sì, poi si lavora sui particolari, sulla singola parola, sulla virgola, sull'accento, sulla singola nota, però. L'idea di base nasce molto in fretta. Live come li fate? Voi vi presentate in due o la formazione è un po' più allargata? Solitamente andiamo in due, anche perché obiettivamente è più semplice trovare da locali, persone locali che accettino questo tipo di impostazione, di impostazione di musica, anche certo, di musica prevalentemente inedita. E non sono mancati però dei live, delle esibizioni con qualche, diciamo, sì, abbellimento, strumento aggiuntivo. Ci sono, abbiamo fatto dei live con l'armonica e dei live con armonica e chitarra. Adesso e anticipo quelli che saranno i prossimi passi. Stiamo arrangiando il nuovo disco, il vero disco d'esordio. Questo era un'infelicità qualsiasi, è un EP, e quindi il vero disco full length, e lo stiamo arrangiando invece con una band vera e propria, quindi con basso, chitarra e batteria, e auspichiamo che i live che faremo una volta uscito saranno con bassa, chitarra e batteria, siano dei live elettrici e dei live pieni. Nel disco, che quello diciamo ufficiale, il primo, insomma, troveremo ancora queste canzoni o sono completamente delle nuove? Lo posso dire, lo dico, dillo. Saranno tutti pezzi nuovi. Tutti pezzi nuovi. Questo resta comunque il tuo disco d'esordio. Quello lì è rimasto disco d'esordio, e fortunati coloro i quali. Che ce l'ho io, grazie, l'onore. Hanno avuto l'onore di poterlo acquistare. Ah, ma non te l'hanno detto, ce lo devi ridare dopo. No. Questo non era previsto. Va bene, dai. Non era dei patti. Glielo lasciamo. Grazie, gentilissimi. Blu Radio Veneto, sono le 21:32 con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con Diego Pettena e Andrea Gobbo qui a proporre la musica da questo EP, come abbiamo poc'anzi sentito, cioè che si intitola Una felicità qualsiasi, in attesa poi che prenderà il suo disco nuovo, magari se ci verrai a ritrovare con il disco nuovo, quando secondo dovrebbe uscire il disco nuovo? Diciamo quest'estate, non so se prima o dopo, comunque... Ah, quello lì è la nostra idea. Poi bisogna vedere, perché ci sono anche delle altre logiche che decidono quando è meglio fare uscire un disco, quindi certo, logiche certo, non prettamente artistiche, ma di marketing commerciale. Poi insomma, ricordati di me, è vero? Assolutamente, sì. Sei tu che ti devi ricordare di me, no? Io di te mi ricordo di sicuro. Io ne approfitto per salutare anche David Bonato, insomma, che è quello che... Ciao David! Ci sentiamo spesso, insomma, anche con lui. Lui è un grande collaboratore di questa emittente, che ringrazio, insomma. Io ti conoscevo già, però insomma si è messo anche lui, quindi è giusto salutarlo. Certo. Guida la comunicazione vostra, David. Sì, ci sta seguendo adesso in questa prima fase di promozione di Una felicità qualsiasi, un po' su tutti gli aspetti, stampa, live, interviste. Quelli sono importanti. È importantissimo. Esattamente. Dunque, in scaletta cosa c'è, Agostino? Un altro pezzo da disco, forse? No, come a loro piacimento. Al vostro piacimento. Io direi di suonare ancora dal vivo. Sì, suoniamo un altro pezzo. È la cosa che ci piace di più fare. Bene, bene. Cosa scegli adesso? Vi facciamo sentire il pezzo che dà il titolo all'EP, che è Una felicità. Title track. Sì, la title track. Come si dice? Esatto, che è un pezzo che, come ho detto prima, io ho musicato in 5 minuti, dopo che il mio amico Nazareno mi diede appunto... questo testo. Era un testo nudo, crudo, puro, senza alcuna melodia, e io ho cambiato soltanto una parola, mi ricordo, da quel testo, e da lì in 5 minuti ho scritto Una felicità qualsiasi. Solite cose di una solita sera, sigaretta e un caffè corretto, sai, si nota nel fumo che soffi, e in come bevo, in come parliamo, che ci vuole così poco alle volte, ad avere alle volte. Una felicità, una felicità qualsiasi. Cosa dici, ordiniamo qualcosa o ci infiliamo in tasca le mani e usciamo nel freddo a parlare del domani? È novembre e la nebbia c'è sempre, ma sempre colpisce come qualcosa è di nuovo e di strano che poi se ne va. E mi parli di lei e come sempre lei c'entra qualcosa e ti scordi o ti chiami come le va. Ti tolga la morte o la felicità. Ma così facile guardare le stelle, poi alzi gli occhi, le trovi fedeli, un sì che voglia di andare, di fare, la precisa sensazione d'essere vivo, angeli da sera scaldata dal cuore, col vento che soffia tra i nostri vestiti. Questo è un pezzo molto bello, purtroppo stasera non c'è il violino. Grazie. Che il violino ha caratterizzato molto pesantemente nel senso positivo il pezzo, violino impazzito, un violino particolarmente strano, e quello dava un tocco, una sonorità quasi psichedelica, fuori dal comune. Il testo è molto interessante, voi l'avete suonato benissimo, anche l'impasto vocale era perfetto, con molto pathos, dico. È un pezzo importante questo, fondamentale. È un pezzo molto molto importante, fondamentale per la mia vita, oltre che per la mia carriera, che mi ha ovviamente dato davvero un impulso notevole per partire, insomma, con questa mia nuova esperienza. E fai conto che questo qua è un pezzo che ha scritto mio amico nel 2004, è rimasto là nel cassetto fino al 2010, certo, finché ho trovato l'occasione propizia per poterne creare un brano, insomma, ed è un pezzo veramente che dà una carica di energia, nonostante sia comunque un pezzo molto minimale come arrangiamento, quando lo si suona e quando lo si canta live, che è davvero notevole. Sì, decisamente, versione ottima che avete fatto questa sera, perché proprio nel disco dà un certo segno. Parte con una melodia abbastanza semplice, ma poi l'introduzione del violino, questo violino che spacca proprio la melodia, la rende assolutamente diversa, la spinge in determinati campi, poi ritornate nella fascia melodica, ma il violino dà una scossa molto violenta nel senso positivo del termine. Suonato in che, perché avete deciso che Laura lo suonasse così? Volevamo che fosse un violino fuori dalla norma, fuori dal comune, che fosse un violino rock, che fosse decisamente rock. Un violino pazzo, lo chiamavamo, non ci veniva un termine migliore di pazzo, e abbiamo detto: Laura, fai te. Noi avevamo in mente qualcosa, ma qualsiasi cosa avessimo provato a dire sarebbe stata una distorsione di quello che sarebbe venuto, perché volevamo un pezzo veramente che venisse dalle viscere, che fosse più live, più rock possibile. E è la prima take, è la prima volta che ce la fece sentire. Sì, sì, assolutamente, se l'è registrata da sola con i suoi effetti particolari. È un violino unico, una traccia unica che lei ha messo in loop, è riuscita a creare appunto questo effetto particolare, e quando ce lo fece sentire abbiamo detto: questo è quello che avevamo in mente. Questo si presta benissimo a fare farlo suonare da una band, Diego, questo pezzo qua. Assolutamente. Questo qua è un pezzo effettivamente che... pezzo che può essere mosso, alimentato proprio fortemente da suonare da una band. Potrebbe risultare una ballata che piacerebbe molto anche ad Agostino sicuramente. Ah, indubbiamente. Io amo, sai che te l'ho già detto. Indubbiamente. Prima, sì. Ah, sì, sì, io sono... Ma vedremo. Sì, nulla è scontato, nulla è già scritto, quindi... Nulla vieta che in un futuro, visto che avremo la possibilità di poter contare su una band con i fiocchi, di poterlo arrangiare in maniera diversa. Sì, abbastanza, non dico pesante, però che ha un certo peso, che lascia un certo peso nel live, chiaramente. Anche da pianista, chiaramente. Il pianista può poi dialogare, puoi svariare, puoi andare dove vuoi, alla Kate Emerson, al limite, se vuoi. Cioè, può essere un pezzo che si allarga, i live si fanno così, anche allargando, come tu dicevi all'inizio, prima, qualche secondo fa, il pezzo tu lo crei con due o tre note e poi lo sviluppi. La stessa cosa si poteva fare con questo, assolutamente. Sì, questo è un pezzo che ti permette di farlo in 100 modi diversi. Esattamente. Beh, verrà. Viene è un'idea. Certo. Allora cambierà anche il tuo stile, insomma, di disco di, nuovo, c'è un cambiamento di stile di Diego rispetto al Diego che abbiamo sentito in questo disco. Vocalmente direi di no, perché ormai il mio stile, il mio modo di cantare, penso di averlo abbastanza consolidato. Ma ci sono quelle due o tre sfaccettature particolari per quello, insomma. Però è un pezzo, sì, che è un pezzo, scusa, al di là del disco pezzo, che è totalmente, sì, sarà totalmente diverso rispetto è stata un'idea di Andrea, questo cambiamento, questo andare verso dei terreni leggermente più rockettari. È stata un'idea anche questa comune e anche questa che si è sviluppata con il tempo, non è stata un'idea così spot che ci è venuta una sera. Abbiamo deciso strada facendo, inizialmente volevamo completare l'album, l'EP con degli altri pezzi, poi abbiamo detto ma non c'entrano nulla, abbiamo avuto la possibilità di contare su dei musicisti particolari, molto bravi, abbiamo detto ma forse conviene di più concentrarsi su qualcosa che è totalmente nuovo e che suonerà inevitabilmente diverso rispetto ad una felicità qualsiasi. Ma ci metti sempre lo zampino tu o ti fai condizionare un po' dai vari musicisti che... cioè la linea è tua, è di Andrea o ti affidi nelle mani di questi grandi musicisti, come dicevi tu? C'è molta democrazia, ma soprattutto c'è molto buon senso, nel senso che io riconosco i miei limiti, soprattutto come arrangiatore. Io l'ho sempre ammesso, io sono un cantautore, ma mi piace cantare sostanzialmente, e se vedo che le idee belle vengono da altri, sicuramente non sono quello che va a mettere i bastoni fra le ruote o fare il bastian contrario, assolutamente. Poi ovviamente il progetto è a nome mio, quindi l'ultima parola spetta responsabile ovviamente a me, però ripeto, è difficile, che penso Andrea se lo confermerà, non c'è mai stata qualcosa in cui ho solvito e non sia andata, sia stato l'unico a dire no, e non abbiamo portato a termine. C'è democrazia totale. Ma più che democrazia chiamerei creatività. Creatività, ok. Quindi creiamo, le cose escono... belle, brutte, escono un sacco di idee, quindi registriamo tutte le prove, le riascoltiamo continuamente, ci teniamo le buone idee e poi alla fine il pezzo diventa sempre più completo. Tu, Andrea, sei passato vicino a musicultura? Sì, abbiamo provato per due Andrea, anni. Andrea, scusa, Diego, perdon. Anche Andrea, ho sbagliato per modo di dire. L'abbiamo tentata. Ecco, l'avete tentata. L'abbiamo tentata per due volte anche, quindi abbiamo provato la prima volta con Anime e la seconda volta invece con Attimi, sempre di una felicità qualsiasi. Certo. Abbiamo avuto buone recensioni, buoni apprezzamenti, però poi ovviamente le logiche di musicultura richiedevano dei brani evidentemente diversi, insomma, quindi non è andata bene, nel senso che non siamo stati ammessi, però ci può sempre provare. Una grande esperienza. Sì, sì, è uno di concorsi sicuramente più validi per la musica d'autore in Italia. Certo, sono pienamente d'accordo. Io ne approfitto, anzi, della prima piccola parentesi, se me lo consenti, qui fischia tutto, ricordare che chi volesse iscriversi al Bruno Lauzi, io sapete, ci faccio un po' parte. Insomma, l'iscrizione è aperta fino a fine maggio, dopodiché verranno fatte le selezioni. È stata spostata di una settimana la finalissima, quindi non più a fine agosto ma il 4 o 5 di settembre, ma comunque a breve la data certa. E quindi anche per te, Diego, se vorrai partecipare, insomma, poi magari se arrivi in finale ci vediamo giù lì, perché no? Assolutamente, vedremo di organizzarci, di provare. Oh, sì. Sarebbe bello potersi incontrare giù a Sì, mi è successo, insomma, che l'anno scorso con una band che conoscevo e ci siamo trovati proprio lì, perché sono arrivati in finale con i Diversamente Rossi. Non so se li conosci, insomma. No, purtroppo no. Va bene, 21:45, io direi di far ascoltare ancora una canzone dal vivo, se tu sei d'accordo. Volentierissimo, assolutamente, adesso. E poi magari tra una decina di minuti, quindicina di minuti torneremo al disco. O volevi farle sentire tre dal disco? No, facciamo pure sentire un pezzo live che ci piace tanto. Sì, mi piace tanto. Che è la nostra fisionomia, la nostra diciamo struttura predominante, quella del live. E il pezzo che vi facciamo ascoltare adesso è il pezzo che apre il disco Una felicità qualsiasi, è un pezzo che parla dell'uomo per quello che è nella sua parte più essenziale. L'essenzialità, dicevamo prima, del disco parte veramente proprio dal suo inizio, e l'uomo è bello per quello che è, se lo spogli da tutto quello di bello, di brutto che lo circonda rimane l'anima. Quindi il pezzo si intitola Anime. Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentito. Sarà che questa cosa mi brucia di dentro e non so se mai passerà. Un solo momento tormento che scuote in me l'anima. Sarà solo questione di tempo, di vento e di sano silenzio. Sarà che quel che ho fatto a poco è servito, è inutile, chi lo sa. Gli errori che ci son dentro, nascosti, leggibili, verità. Sarà solo questione di tempo, di vento e di sano silenzio. Anime, anime, anime perse per strade deserte, per strade deserte. Uomini che non ricordano i vecchi perché. Uomini che non ricordano i vecchi perché. Anime che sanno stare da sole come le rose e le viole, belle per quello che sono, anime. Anime perse per strade deserte, per strade deserte. Uomini che non ricordano i vecchi perché. Uomini che non ricordano i vecchi perché. Anime che sanno stare da sole come le rose e le viole, belle per quello che sono, anime. Belle per quello che sono, anime. Sì, era, come abbiamo detto precedentemente, era molto apprezzato da Musicultura questo pezzo, c'è poco da fare, aveva un certo riscontro. Ti ringrazio. E proprio dall'inizio al disco è una cosa molto interessante. Una cosa volevo chiedere a Andrea, suoni ancora ad orecchio per Elisa? Tutta no. E ho letto che a 8 anni suonava per ad orecchio. Guarda, per Elisa. No, allora. Non è vero, è una falsa non notizia. Ad orecchio, a memoria visiva. A memoria visiva, cioè cosa vuol dire? Allora, io avevo un vicino di casa che aveva il pianoforte in casa. Andavo tutte le sere da lui. Lui la suonava, io vedevo dove metteva le dita. Ah, vedi. Quindi io l'ho imparata guardando. Dove metteva la dita? Dove metteva la dita? E la sapevo tutta. Un bambino prodigio. Uno che aveva occhio. Esatto. Occhio per le note. Benissimo. Ritornando a questo pezzo, l'idea di questo arrangiamento, al di là che è stata fatta sempre dal nostro arrangiatore, ma sarà partita anche da voi, chiaramente, l'input. Sì, sì. Questo qua è stato un pezzo che, uno dei pezzi che ha subito meno variazioni. Com'era, come all'origine, e poi esatto. È stato leggermente modificato, ma leggermente, doveva essere così. Questo qua è stato il pezzo che ha dato il là a questa mia svolta solista. Mi ricordo quando Andrea me lo fece ascoltare nel 2009 ancora. Sì, questo l'ha scritto Andrea. L'ha scritto Andrea e me lo fece ascoltare nel 2009, eravamo in macchina, mi ricordo. Ancora veramente l'immagine ben stampata in mente, mi fece ascoltare questo pezzo, a me è piaciuto subito tantissimo e davvero, insomma, da lì l'ho tenuto anche questo nel cassetto, nel senso che è passato un anno e mezzo prima di poterlo pubblicare, ritirare fuori, ma quando abbiamo iniziato questa nuova avventura ho detto dobbiamo assolutamente arrangiare e riarrangiare Anime in versione piano e voce e renderla così essenziale, così intima come... Ma come sei riuscito a sposare la tua... Tu eri facevi parte di una band, sposare il discorso della band, sposare il discorso del cantautorato di un certo peso, perché si parla di un cantautorato, no? Così fatto, così da classifica, assolutamente no. Ma ti dico, io è stato molto più semplice di quello che si potesse immaginare, nel senso io che lo immaginavo un po' più difficile invece. io canto un po' di tutto, insomma, anche quando ho cantato nelle band ho cantato prevalentemente rock, hard rock, però cercavo sempre un po' la melodia perché ho sempre avuto una voce abbastanza melodica e per cui il fatto di affrontare questa tipologia di musica d'autore non mi ha mai spaventato, non mi spaventava, non mi spaventa neanche adesso. Volevo comunque qualcosa che mi valorizzasse sia in termini vocali che in termini di artista, insomma, come brani da cantare, da scrivere, da arrangiare, e vedevo appunto nei pezzi che aveva scritto Andrea, che mi aveva fatto ascoltare più e più volte, veramente del materiale su cui lavorare, anche vocalmente, soprattutto vocalmente, dove poter tirare fuori qualcosa di buono. Hai sempre detto ok Andrea, l'interpretazione dei suoi pezzi praticamente. Andrea è sempre molto democratico, come vi abbiamo detto prima, e ha tanto buon senso. Come ha messo il microfono, sei democratico. Sì, è molto democratico. Sono comodo più che democratico. Esattamente. Niente, quando gli feci questa proposta di poter cantare i suoi pezzi, lui, mi ricordo, è rimasto, non dico sbalordito, comunque molto molto contento. E poi mi ha sempre detto falli tuoi e cantali, interpretali come sai fare te, insomma. Esatto. Cosa si sente Andrea quando un altro amico prima e poi musicista suona i tuoi pezzi, interpreta i tuoi pezzi? Un bel orgoglio musicalmente dentro. Ma è qualcosa di meraviglioso. Qualcosa di meraviglioso perché lui tira fuori cose che magari io non avevo neanche pensato, no? Certo. Ci mette la sua creatività nel cantare, nel dare l'accento più a questa nota o quest'altra nota, quindi completa un qualcosa che era lì e però aveva bisogno di espandersi. Sì, la sensibilità del vocalist, del cantante, vocalist nel senso della band, ma in questo caso del cantante, del protagonista, sì, anche se il pianista è appena dietro, chiaramente, non è che sia distante, siete sempre nello stesso palco tutti e due. Io quando scrivo le canzoni e le canto io, hanno una un sensazione peso. Che magari viaggia dentro me, però è ferma lì. Poi quando passano attraverso Diego, prendono l'autostrada, via, senza casello. Diego, che belle parole. Senza casello potrebbe essere il titolo di una canzone, senza casello. Senza casello. È un bel titolo. Però è una bella idea. Abbiamo dato uno spunto per la prossima canzone. Sì, sì. E avete sentito poc'anzi le parole di Diego che diceva che lui cantava anche non solamente le canzoni sue. Io c'ho una chicca. Tangled old state of mind. I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Turn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just the shadow of the man I used to be. And it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down. Oh, how would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible? Oh, there's no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Oh, yes, too much love will kill you. Just as sure as not at all. The dream, the power that's in you, make you bleed and scream and crawl. Avete capito perché vi piace Diego? Che bei momenti. Allora, Diego, questa era una partecipazione tua a una serata particolare. Sì, questo era un concorso che ho fatto nel 2011 solo per brani editi, si chiamava Stella per una notte, ero a Legnago in provincia di Verona. È stata veramente un'esperienza molto emozionante perché cantavamo dal vivo con un'orchestra che suonava dal vivo ed è stato veramente molto bello, molto emozionante. E il mio brano, la mia interpretazione è stata anche molto apprezzata perché sono arrivato secondo nella classifica generale e ho vinto un premio che mi ha assegnato l'orchestra come migliore esibizione. Performance. Una grande. Lo trovate tranquillamente su YouTube questo video integrale con tutta questa orchestra che diceva poc'anzi Diego e nella sua splendida interpretazione. Io l'ho messo anche nella mia bacheca perché mi piaceva veramente tantissimo. Sarà che io amo i Queen e quindi vabbè, che questa è proprio di Brian May, è dedicata a Freddie, però insomma comunque questa è una grande canzone cantata splendidamente da te, Diego. Grazie mille. Sì, credo sia doveroso dire che questa è una registrazione live. Lui in live ha registrato con questa qualità. Cioè immediatamente senza nessuna... Quindi non ci sono ritocchi. No, quello era... Lui ha cantato così e se voi lo ascoltate è perfetto. Ah sì, è vero, è perfettamente. Andrea mi vuole tanto bene. Grazie. Beh, anche noi se ti abbiamo voluto qui... Allora, adesso invece torniamo al tuo disco, sì. Diego, torniamo a questa felicità, una felicità qualsiasi. Hai scelto una canzone dal disco? Sì. Che si intitola Luna Nera. Luna Nera, che è il pezzo che chiude il disco. Sì. Ed è un omaggio all'oscurità, a questa signora delle tenebre che tanto ci spaventa, ma che alla fine noi vogliamo un po' così omaggiare e... Non, prendendoci poco sul serio, la vogliamo così esaltare, anche cercando di sdrammatizzare un po' la situazione. Questa è Luna Nera, allora. Sì, beh, parliamo dopo del pezzo, allora. Ok. L'ascoltiamo. Ok. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. 22.05 in questo preciso istante. Oggi è giovedì 14 marzo 2013 con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Diego Pettena. Bravissimo. Grazie, che lo sbaglio sempre. Io sono famoso per sbagliare i cognomi, poi tra l'altro, e anche i nomi dei gruppi oltretutto. E Andrea Gobbo alle tastiere, che tra l'altro abbiamo scoperto qui, insomma non lo sapevo neanche noi, che è un cantautore anche lui. Magari ci hai fatto qualcosa, ci hai un pezzo da farci sentire, Andrea? Così, a cappella anche se, oppure usa pure il tuo piano. O ti chiedo troppo? Oltre a quelli che abbiamo già sentito, ne ho, se vuoi, altri 70. Vabbè, scegliene uno. Prima, se ci pensi, tanto noi parliamo del pezzo. Sì, parliamo di questo pezzo che chiude l'album. È un pezzo, come avevamo detto, cioè, stavamo parlando a microfono spento con Diego e con Andrea, che si allontana dagli altri quattro per un arrangiamento particolare, per delle colorazioni particolari. Sì, tu hai citato gli Avion Trave, io avevo citato all'inizio i Massive Attack per certe colorazioni elettroniche e poi si arriva al jazz. Andrea mi spiegava che la costruzione originale era strana, l'idea era molto strana di arrangiamento. Com'è andata, Andrea? Sì, allora questo è l'unico brano che non ha richiesto un grande lavoro di arrangiamento. Noi ci siamo trovati a registrare con basso, chitarra, batteria un pomeriggio e gli abbiamo dato indicazioni su cosa volevamo da questo pezzo, ovvero volevamo che non avesse niente di definito. Sì, piuttosto labile. Esatto, il ritmo c'è, continua a muoversi, si sposta, il basso fa linee strane, la chitarra c'è, sparisce. L'unica cosa certa è la melodia e un po' gli archi in mezzo. Abbiamo dato questo input, abbiamo detto ai musicisti: fate quello che volete, basta che non sia una cosa normale. È vero, non è una cosa normale. Alla terza take era perfetta. Benissimo, cioè una improvvisazione tra virgolette. Questo è un pezzo improvvisato in studio, dopo 20 minuti il pezzo era registrato. Ovvio è che un discorso del genere lo puoi fare solo se hai dei musicisti. Ecco, citiamo questi musicisti che non abbiamo ancora citato, uno per uno. Allora, Filmer. Questo abbiamo già fatto un sacco di volte alla batteria, poi abbiamo avuto Riccardo Bertuzzi alla chitarra, un bravissimo chitarrista, e Davide Pezzin, anche lui al basso, che ha suonato con Cristiano De André, con Laura, e ovviamente poi abbiamo avuto il mitico Andrea Gobbo alle tastiere, pianoforte, e le tre ragazze, Laura Masotto al violino, Maddalena Fasoli alla viola e Cecilia Gonzales al violoncello. Quindi una bella ensemble, possiamo dire così. Però non tantissime le persone, forse poche ma buone, se mi consenti, Diego. Sì, di solito c'è un sacco di gente, ospiti, uno per una canzone, uno per un'altra. Invece tu hai fatto con poche persone ma buone. Abbiamo concentrato il tutto con quelle risorse che avevamo disponibili. Credo sia da ammirare questa tua scelta, insomma. Grazie. Anche perché è uscito un buon prodotto, un bel prodotto, insomma. Ti ricordo davvero. Sì, sta ricevendo delle recensioni molto, molto positive, che ci hanno fatto piacere, che ci stanno incoraggiando a proseguire su quella che è la nostra strada, la nostra intenzione. Insomma. Dobbiamo citare che è tutto autoprodotto, quindi tutto fatto con la sacco della vostra farina. Nel vostro, o al contrario, dipende da come la potete interpretare. Siete voi e basta, cioè voi con l'aiuto degli altri, ma non c'è altro. Esatto. Andrea è di più, poi scrive. Sì, Andrea è molto di più. Tu pensa a qualcosa, Andrea è di più. È oltre. Infatti, lui dice: grazie. Il primo e più grande ringraziamento va, neanche a dirlo, ad Andrea, senza il quale molto probabilmente niente di quello che ascolterete in questo disco esisterebbe. Andrea Gobbo, che è più di un pianista, più di un compositore, più di un arrangiatore, più di un amico, Andrea è di più. E poi dice ancora: ringrazio poi coloro che mi vogliono bene e mi hanno supportato in questo progetto. Primi fra tutti i miei genitori. La mia ragazza, che si chiama Giorgia, la salutiamo. Nazza, che ci sta ascoltando probabilmente. Nazza è Nazareno, colui che ha scritto il testo di Una felicità qualsiasi. E tutti quelli che mi hanno incoraggiato in un modo o nell'altro, mi sono stati vicino. Grazie a tutti. Un grazie particolare va poi a Federico Pelle, la cui competenza tecnica e prima di tutto il suo talento di compositore e arrangiatore si sono rivelati essenziali per la produzione di questo disco. Anche Fede non è semplicemente un fonico, un musicista, un compositore, un arrangiatore, è di più. Infine, un doveroso ringraziamento vanno ai musicisti che hanno accettato di collaborare per la buona riuscita del disco, grazie a Phil, Davide, Riccardo, Laura, Maddalena e Cecilia. Diego. Li ho ringraziati tutti, mi sembrava il minimo dopo quello che hanno fatto e dopo il prodotto che ne è venuto fuori. Ricordiamo che il disco è stato registrato dove? A The Basement Studio di Vicenza, di Federico Pelle, registrato, mixato e masterizzato da lui. Poi c'è la grafica, l'impaginazione di Marco Tiso. Di Marco Tiso, un amico, un collaboratore qua di Padova che abbiamo conosciuto. Sì, perché la foto di copertina è fatta in centro a Padova. In centro, proprio vicino. Sì, sì, vicino. Proprio il centro. Il centro storico. Che è di Luigi Pietro Santamburlo, giusto? Il fotografo, sì, che mi ha immortalato in queste pose artistiche. Davanti e dietro sempre il centro Padova, anche dietro. Sì, abbiamo fatto un giochino, volevamo la stessa foto ripresa dai lati opposti. E... Lui era ben vestito, ma era marzo, faceva un po' di caldo. Faceva molto caldo. Esattamente. Bene, io volevo sentire Andrea, se è pronto. Ci fai sentire qualcosa di tu, Andrea? Sì. Hai voglia? Se hai voglia, sì. Io non voglio obbligarti. Poco, vi canto poco. Poco, sì. Io non sono un grande cantante, canto più di pancia. Guarda, questa infatti è un'anteprima pazzesca. Ma lo deve fare per sentire. No, è un evento. Io invito tutti gli ascoltatori a mettersi, a chi non è ancora in ascolto, a mettersi sì, in ascolto. A cambiare canale. Allora, è un pezzo che ho scritto 13 anni fa. Vi canto solo l'inizio. Lo canti con la tua tastiera? Sì, sì, sì, sì, okay. Sì, sì. Puoi andare quando vuoi, puoi andare. Quando sei pronto puoi tranquillamente suonare. Hai già i microfoni tutti aperti. Bene. Una preghiera. Se la canti è più bella la sera, se la canti tutta la vita intera, io la canto per te. Cancellare tutto ciò che non va, ma se la canti anche tu, una pioggia sarà di note in posti lontani che cadono giù. Una preghiera è così anche se la straniera e ti può sembrare strano sentire. Thanks for my life, God. Andrea Gobbo al pianoforte e alla voce. Alla faccia, vedi. Nonostante che tu non canti, però non sei un cantante, però sei comportato bene. Qual è che ci viene a trovare, Andrea? Domani dovrai fare un disco anche tu da solo. Potrei. C'hai il tuo disco, Andrea, per caso? Scusa? Hai un tuo disco? No. Non hai mai pensato di farne uno? No. Meglio come autore, dici? Sì. Autore e co-autore con... Questo intreccio vocale con Diego. Sì, molto più, più giusta questa strada. Più giusta questa strada. Andrea non è un cantante, è di più. Cioè dovrei far subito due dischi, hai capito? Senti Andrea, già che stai parlando tu, poi arriveremo anche a Diego. Quando sei, diciamo, tra virgolette, rilassato a casa, insomma, cosa ascolti? sì, che non sia sì, Diego. Che non sia Diego, sì. Sei pezzi di Diego. Cioè, praticamente, cosa ti piace ascoltare? Mi piace la musica italiana. Cosa è che mi ti piace? Perché a me piacciono le parole. Tre dischi che sceglieresti assolutamente, che non possono mancare nella tua discografia? Tre. Il secondo o primo disco, non mi ricordo, di Gatto Panceri. Il titolo non me lo ricordo. Un disco mix di tutte le più belle canzoni di Edoardo Bennato. Ah, ti piace Edoardo Bennato? Adoro Edoardo Bennato fino all'85. Sì, che poi si è un po' perso. Sì, si è un po' perso. Però. Leggermente, però è sempre lui. Basta e avanza tutto quello sì, che fa. Sì, come no, assolutamente. E poi, il primo allora praticamente Bennato. Del primo Bennato, sì, fino direi a Ok Italia. E poi un mix tra gli Stadio, Guccini, wow, Dalla, tutte finalmente uno che mi dice gli Stadio, quel mondo lì emiliano dove le parole hanno pesano, pesano. Sì. A me piacciono le parole. Ho capito. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, tipo questa, insomma, tipo questa, sì, tipo questa, tipo questa. Questa è una delle canzoni che Edoardo, cioè Edoardo Bennato ha fatto due versioni di questo pezzo, lo sai, no? No, in due dischi diversi. In due dischi diversi, sì. Anche dal vivo, poi, tra anche dal vivo, cioè, sì, bello, sì. Beh, un giorno credi, un pezzo storico suo, uno dei più belli. Lo so che ti spiego il retroscena, tu non lo sai, no, non lo adesso so. Te lo spiego. Gli ascoltatori sono lì che 10 anni fa, quando è venuto Diego con la sua band, gli abbiamo fatto la domandina, perché è una domanda che la facciamo a tutti da molti anni. E cosa è successo a quel momento, Diego? È successo che sono passato un quarto d'ora prima che dicessi il primo titolo del primo album. Io purtroppo ascolto di tutto. Ma diciamo, avrai delle preferenze? No, sì, ho delle preferenze. Beh, musica italiana, musica italiana. Musica italiana, ma non solo. Musica italiana, ti posso dire tutti i dischi di Litfiba. Vedi. Anche qua fino al. Anche all'ultimo? No. Fino a quando fino al 97. Poi ci sono sciolti, sono ripresi poi l'anno scorso. L'anno scorso, sì, 2010. 2010 all'incirca. Mi piace molto Max Gazzè, quindi ti posso dire il primo album, cioè il primo, sì, quello che fa paura, ma anche La favola di Adamo Adele. Quello è bellissimo, quel disco là è bellissimo. Che lo ascolto veramente. E il disco di Sanremo ti piace? Il pezzo di Sanremo mi piaceva di più quella che è stata scartata. Anche a me. Anche a me, ma spesso e volentieri succede, è successo che gente che ha sentito quella scartata preferiva quella scartata, però le giurie ed altri sistemi hanno invece fatto andare avanti quella non scartata. Come sono un fan anche di Elio Le Storie Tese, e anche in quel caso mi piaceva di più il pezzo che non sulla, nonostante la canzone Mononota abbia popolato, diciamo, per radio, ma il pezzo è un po' difficile, però. Dannati Forever mi piaceva. Dannati Forever, mi piaceva solo Elio poteva fare una cosa simile, esattamente, e l'ha sempre fatto, non è mia novità. Sì, ma d'altronde lui è questo personaggio. Cioè, lui è Zappiano, bisogna dirlo. Elio è Zappiano, essendo Zappiano, non ha nessuna regola. Zappa non aveva nessuna regola perché si faceva di tutto, dalla classica alla rock, di tutto. Era Zappa. Elio vorrebbe. No, chiaramente nessuno si avvicinerà a Frank, però vorrebbe portare quel progetto là, di fare un po' tutto. Assolutamente. Ed Elio ed è bravissimo. Sono degli strumentisti straordinari. Adesso è al cinema, è stato con il film della Fine Chiaro. Sì, esatto. È stato in teatro e poi lui canta una versione di Largo al Factotum del Barbiere di Siviglia, che è la fine del mondo. Cioè lui, secondo me, è un artista eclettico a 360 gradi. Esattamente. Non aver pensato prima alla canzone Mononota, una canzone poco nota. Sì, diciamo che non è molto da Sanremo questa, Direi di no, però. Quando uno invita Elio sa benissimo che non farà mai, scriverà mai un pezzo di Sanremo. Non sarà da Sanremo, però due volte che secondo. Sì, esattamente, quella dei cachi, come si chiamava? La terra dei cachi, sì, quello che ha spopolato. Insomma, io vi svelo che ci volevano 4 ore, se non qualcuno lo sa, per fare il trucco avevano sul palco. Sì, mi ricordo, sì. Verissimo. Noi non né io né Alberto ne abbiamo visti lì a Sanremo perché proprio erano impegnati con il trucco, sì, 4 ore prima. A parte che è un 6, ma è anche 4 Europa, quindi non si sono mai fatto vedere a casa Sanremo, non li avevo mai visti, però insomma comunque hanno lasciato il segno. E Diego avrebbe intenzione, lancio l'idea di andare a Sanremo assieme ad Andrea, chiaramente. Ci potrebbe essere un pezzo sanremese nel vostro bagaglio sonoro? Direi proprio di sì. Lui dice di sì, assolutamente. Sì, anche per me. Dice di sì. Ci potrebbe, nel senso che è una cosa, io dico sempre, Sanremo, penso che bene o male tutti gli artisti emergenti vorrebbero andarci. Certamente, insomma, anche chi dice no, alla fine, insomma, vorrei vedere se ti proponessero e ti dessero effettivamente la possibilità di calcare. Quando sei davanti a 10 milioni di persone, esatto, è una cosa diversa. Non direi mai di no. Per cui il pezzo ci potrebbe essere, se non c'è si potrebbe scrivere. Pensarci bene. E sarebbe bello effettivamente avere una possibilità di... Nel disco nuovo abbiamo, secondo noi, due brani che hanno potrebbero le caratteristiche di Sanremo. Infatti adesso l'idea è quella di registrarli in studio e valutare se pubblicarli subito nel disco o no. Ok, tenerlo in sospeso. Stiamo svelando troppe cose. Stiamo svelando troppe cose. Potreste far uscire il disco dopo Sanremo, eventualmente. Sono cose da valutare. Oppure fare il disco, tenere il pezzo per Sanremo, se per caso va, fare l'uscita dal disco con il pezzo di Sanremo. Non sarebbe male. La seconda edizione la ristampa con il disco, con il pezzo di Sanremo. Siccome fanno tutti praticamente. Esatto. Fanno tutti così, ristampano il disco speciale Sanremo. Fanno tutti quanti, l'hanno fatto tutti e continueranno a farlo tutti. Edizioni diverse, conduttori diversi, però l'idea è sempre quella. Dico, quante canzoni avete quella che ci potete proporre dal vivo qui questa sera? Ma ne abbiamo un altro paio. Due, allora una ne facciamo subito, poi andiamo in studio e così poi ci diamo i saluti finali. Assolutamente sì. Cosa ci hai fatto sentire? È un pezzo che ci piace tanto fare dal vivo, che si intitola Quanto bene quanto male, ed è un pezzo che parla anche qui di quei fatti, di quelle azioni che una persona compie, può compiere, e che la stessa persona con la stessa azione può fare del bene e con la stessa azione può fare anche del male verso altre persone, quindi certo. L'ambivalenza di quello che puoi fare e il grande significato che devi dare appunto alle tue azioni, visto appunto il pericolo che possano essere interpretate in modo ambivalente. Questo è Quanto bene quanto male. Non ho trovato mai la pace per quegli errori miei. Ci son ferite così profonde, vorrei guarissero, vorrei. E non c'è modo di riparare per quello che si fa. Se bene o male, in ogni tempo resterà. Fatto vero che nel mio giorno tu ci sei poco e per carità, e son sincero se dico a te amico cosa ne sarà, e di me che cerco costantemente di metter pace all'anima mia, non ne ho la forza e non lo so chiedere nemmeno a Dio. Quanto bene, quanto male, quanto si può fare, occasioni che la vita ci permette già. Quante volte ho detto non importa, lascia stare sempre tutto quello che è già stato, tutto il mio passato forse servirà. Voglia di urlare al mondo le cose che ho dentro me, vorrei parlare e dire a tutti quanto pazzo son di te. Se questo è un sogno vorrei davvero che non finisse mai, aprire gli occhi e trovarti lì che guardi i miei. Quanto bene amico caro, quanto mi sai dare, non ci sono condizioni in quello che tu fai, tu ad ogni cosa il nome giusto riesci a dare, sempre come un pugno nello stomaco vai dentro me. Ti ringrazio, sai. Sono come una farfalla che è libera, ma la rotta del suo volo non sa. In tutto questo, se c'è un senso, credo che in fondo sia di ricercare dentro a se stessi il vento che ci porta via. Se chiudi gli occhi e lasci spazio ad ogni verità, se bene o male, non importa, arriverà. Quanto bene, quanto male, quanto si può fare? Quante sono le persone in difficoltà? Prendo la tua mano che mi aiuta e mi dà forza per dare tutto quello che è già stato, tutto il mio domani, certo servirà. Servirà. Un pezzo molto bello, al di là dell'accentuazione finale, un pezzo minimale, questo è proprio un pezzo minimale, proprio si sposa perfettamente, sì, al concetto in cui si basa il progetto nato con questo EP. Sì, questo è proprio un pezzo minimale, questo è un pezzo che attualmente facciamo soltanto dal vivo perché non c'è nell'EP e non è neanche, quantomeno per adesso, in programma che possa uscire nel disco, però è un pezzo che veramente ci piace tanto fare e che è molto apprezzato anche dal pubblico che ci ascolta. È molto, molto apprezzato anche da noi, soprattutto per gli impasti vocali, i perfetti impasti vocali, la voce e la controvoce di Andrea che si sposano perfettamente, e questa è una cosa positiva, dà un certo senso, un certo humus al discorso del pezzo. Sì, io lo sento così. Sì, sì, assolutamente, è qualcosa su cui puntiamo, che ci piace fare, su cui giochiamo molto, molto spesso, cerchiamo sempre di, visto che abbiamo la fortuna di avere, di avere due belle voci e comunque di essere intonati entrambi, di creare sempre queste armonie che possono appunto arricchire, sì, un pezzo che magari di per sé appunto è minimale, ma che se non è arrangiato in maniera molto, molto importante, molto ricca, lo è sicuramente sotto dal punto di vista vocale, insomma, delle armonie. Ma secondo me deve essere arrangiato così, non lo sento sovrarrangiato con altri strumenti, deve stare così, io la penso così, la penso in questa maniera. Sì, beh, questo brano sì, soprattutto se hai avuto modo di notare, la prima strofa io faccio sempre le stesse note. Sì, vero. Cambio due note con la mano sinistra, sempre la stessa, un ostinato lì, proprio per lasciare spazio alla melodia e alle parole. Esattamente, esattamente. Io ti faccio una domanda cattiva, posso? Sono qui. Masuriana. Bravo. Masuriana. Sono 22-28, manca poco, insomma, è solo per capire un po' di più di Diego. Diego, chi è Diego? Diego è un ragazzo, un cantautore, un ragazzo prima di tutto molto semplice, molto umile, a cui piace cantare e che anche lui ha dei sogni, come tutti i cantanti, gli artisti emergenti o comunque coloro che vogliono, che fanno della musica la loro passione più importante, sa quanto duro, quanto difficile sia riuscire ad emergere e farsi notare in questo grande marasma, questo grande mercato musicale, questo grande bacino di artisti emergenti di vario genere, e per cui è un ragazzo che ce la mette tutta, consapevole che anche mettercela tutta delle volte può non bastare, ma che l'importante è essere soddisfatti effettivamente di quello che si fa e di veramente ascoltare quello che si è fatto e stare bene, essere contenti, insomma, non fare una cosa perché ti tocca o perché è meglio farla così, ma farla perché ti piace che sia fatta così. Cioè, e per sintetizzare, provarci sempre. quello sì, è quello è fondamentale, provarci sempre, perché un giorno o l'altro provarci e crederci, esatto, e crederci, quindi è collegato. Bene, io vedo che qui Renato non arriva, io continuiamo con possiamo continuare ancora qualche minuto qualche minuto insomma, Renato dovrebbe... invece per quanto riguarda Andrea, volevo chiederti cosa ci trovi di difficoltà, oppure è tutto facile lavorare con Diego? È tutto molto facile, anche perché il lavoro nasce ed è pensato su di lui. Le cose che ho scritto da quando collaboro con Diego le scrivo pensando a lui che le deve cantare. Mm-hmm. È tutto molto molto facile. E lui nei tuoi confronti che personaggio è? Come lo vedi, insomma? È sempre troppo buono. Troppo buono. Pignolo, perfezionista? Al punto giusto va detto che lui, quando registriamo i brani alla prima take, è sempre giusto, quindi è anche troppo facile. Poi sono io quello buono. Sono io quello buono, ho capito. Quindi lui sarebbe più perfezionista di te, Andrea? Sotto certi aspetti sì. Su altri chiaramente no, siamo complementari. Diciamo che anche noi abbiamo le nostre divergenze d'opinioni. Beh, su qualche arrangiamento, su qualcosa, ma è giusto che ci sia, perché siamo due menti pensanti, quindi certo, è giusto che ci sia confronto di idee, no? Però sì, diciamo che siamo dementi pensanti, siamo dementi pensanti. Il titolo di un altro brano, sì, esatto. Abbiamo già scritto due brani, esatto. Dementi pensanti, un po' a Elio questo qua, sì, leggermente da Elio, un po' fuori di però non si sa mai. Guarda, nel disco nuovo ci sarà un pezzo che quando tu lo sentirai ti verrà in mente Elio. Ecco, perfetto. Quindi state costruendo, state allargandovi, mi pare giusto. Ma sì, sperimentiamo strade nuove. Bisogna sperimentare. Sempre la stessa, sai. Sì. Vuol dire che abbandoni le mie ballate? No. No, ci saranno anche delle ballate no, però, scritte, sai, su misura e ad per hoc me. Per te. Grazie. Senti Diego, perché non abbiamo ancora detto, se qualcuno ti volesse contattare, ovviamente, i tuoi contatti. Beh, io ho un sito internet www.diegopettena.it, ho una mia pagina Facebook e ci tengo, insomma, che la gente mi clicchi su mi piace sulla mia pagina Diego Pettena. Ho anche il mio profilo personale su Facebook, quindi Diego Pettena, cercatemi, chiedetemi l'amicizia, io non aspetto altro, mi piace interagire con i miei fan, comunque con le persone che mi apprezzano anche con questi social network. Ci sono anche su Twitter Diego Pettena. Ho anche un MySpace, anche se lo aggiorno pochissimo. Ma quello è abbandonato un po' da tutti. Io purtroppo, primo. Perché io sono un fan di... Anch'io, però ultimamente... Infatti, se ti ricordi, noi due ci siamo conosciuti tramite il MySpace. Ecco, quindi il sito diegopettena.it, poi da lì ci sono tutti i collegamenti, anche appunto i social network, al mio blog. Ecco, cercatemi, io ci sono. Qualche data, Diego, l'avete qualche data? Adesso, prossima? No. Sì. Ma adesso siamo concentrati sul disco. Sul disco. Esatto, siamo rinchiusi in sala prove e stiamo arrangiando. Quando verrà fuori il disco, allora il discorso cambierà, chiaramente. Ah, beh, assolutamente, cioè, sì. E si ricorderà di noi, di me. Questo, sentire. Questo è il minimo. Certo. È il minimo. Dovrete voi ricordarvi di me. Sì. Beh, insomma, noi metteremo il podcast, metteremo le foto, quindi. E la recensione resta sempre comunque nel nostro sito. Quindi, quindi potranno sentirti e leggere sempre per tutta la vita, insomma, finché durerà. Questa è l'emittente che speriamo duri tantissimo. È lunga vita. Radio Vento. Ecco. Diego, è arrivato il momento di salutarci, perché è arrivato Renato che tra poco ci allieterà con la sua musica heavy metal, hard rock. Bene. Quindi totalmente classico. Classico, hard metal classico. Classico. Uno dei speaker storici di questa emittente. Forse sì, esattamente. Con me uno e con tanti altri. No, perché sei entrato dopo. Io sono più giovane. Decisamente più giovane. Senti, non lento, chiediamo cosa ci fanno ascoltare. Sì, cosa ci fate ascoltare per finire in per bellezza. Finire? Vi facciamo ascoltare un altro pezzo che ci piace tanto, un pezzo che parla della verità. Mm-hmm. Che cos'è? Che cosa sarà mai e dove si cela la verità? Noi cerchiamo di scoprirlo, quantomeno di ipotizzarlo con questo pezzo. Qual è la verità? Bene, allora noi ci diamo appuntamento a... Beh, io ci sarò lunedì. Sì, ci sarai lunedì con Stefano Dainese, io sarò da supporto, chiaramente. Grazie. E poi ci ritroveremo con Giovedì abbiamo un'artista, una bellissima artista, oltretutto, perché è una bella ragazza, una bella donna, si chiama Letizia Gambi, lei fa un po' sul jazzato, e verrà su, con un tastierista anche lei, e ci alletterà con la sua musica, un disco molto bello, dalle canzoni cover alle canzoni sue, ma è un disco che ci ha... solo, ti faccio solo un nome alle spalle, Chick Corea come artista che c'è dentro questo disco, quindi è una grande grandissima artista. Quindi l'appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 21 con Agostino, con Maurizio e con Blu Radio Veneto, questa fascia oraria chiamata Blu Time. Diego e Andrea, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, è stata veramente un'esperienza meravigliosa e grazie per il vostro calore, il vostro, la vostra competenza, il vostro supporto. È veramente un'esperienza da rifare e spero di poterci ritrovare qui fra pochi mesi per poter farvi sentire anche i nuovi pezzi. Aspettiamo anche Andrea con un disco magari, se avrà. Se lo fai. No, io ne faccio due contemporaneamente. Va bene, ciao a tutti e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto appunto con Renato Ferro. Però prima ci ascoltiamo l'ultima canzone di Diego Pettena. Ciao ragazzi. Sguardo di un bambino che guarda a bocca aperta un cartone, lo fa sorridere. Fra le mani di un anziano che al cucchiaio che trema consuma la sua cena solo e pensa a te. In quei giochi nati senza idee i ragazzi scalmanati e sassi giù dai cavalcavia, e nei drammi di ogni film dossier c'è sempre un uomo che cade trafitto dalle sue spade, che forse è come te. Se sei un uomo diverso, apriti e sarai felice ospite dentro di te per aiutarci a sorridere e vincere le tristezze. L'ipocrisia che puoi vedere solamente se sei un uomo diverso. Apriti e sarai felice ospite dentro di te per aiutarti a sorridere e a vincere le tristezze. Perché un uomo vero lo sa. Qual è la verità? Grazie a tutti.